questo è per la gente sulla rete. Fatevi sentire quanti siete. Forse è difficile da immaginare oggi, ma c'era un tempo in cui i computer praticamente non esistevano, se non nella fantascienza e nell'immaginario degli appassionati di tale genere. Benvenuto in mezzo al panico del secolo mediatico, dove ogni regola è infranta e non esiste zona franca, dove la gente arranca presso al prossimo spettacolo e già dal giorno zero alzato in cielo la bandiera bianca. Questa è l'era della... Per un nativo digitale forse è difficile immaginarlo, ma c'è stato un tempo nel quale i computer si collegavano al televisore e i programmi giravano su un registratore a cassetta, salvati su di un nastro magnetico. Comincia da qui questa puntata speciale di Clio, che tratta argomenti che si discostano da quelli affrontati usualmente. Un nuovo percorso di ricerca inaugurato con la videointervista a Void, che ci porterà negli anni Ottanta alla scoperta del periodo pionieristico dell'attivismo. Lascia fare a chi sa fare on stage, caos e colle del fomento, bomba a tempo come rage. Un viaggio lungo il quale ci accompagnerà Zombie Jay, veterano della comunicazione in rete, uno che faceva circolare, grazie ai computer, l'informazione del movimento antagonista prima ancora che internet fosse inventata. Con lui parleremo dei primi computer, degli utilizzi del PC per realizzare fanzine e soprattutto della nascita di ECN, la prima vera rete che unì l'Italia antagonista. Mister Chatty Boy, per voi ho polvere di stelle, però a noi lasciaci fuori dalle vostre tarantelle. Mettetevi seduti e staccate tutto per 20 minuti, perché la storia che sentirete, soprattutto se siete nati a inizio millennio, forse non l'avete mai ascoltata e potrebbe dare spunti interessanti ai ribelli dei nostri giorni. Con le skills virtuali, come da blockbuster, stessi film sempre uguali, quelli coi CD multimediali più potenti, ma solo effetti speciali, mano a banali utenti. Personalmente il mio primo computer risale al 1983. Di un computer, non di personal computer, un computer che erano quella categoria di strumenti che per un costo contenuto e attraverso l'utilizzo di elettrodomestici presenti in ogni abitazione consentivano di iniziare questa relazione con il digitale, con l'informatica. Macchine come gli Spectrum piuttosto che Commodore 64, più avanti poi l'Amiga o altri dispositivi, consentivano di collegarsi a un televisore di casa come monitor, usare un registratore a cassette a nastro per la memoria di massa. Loro fornivano la tastiera e la memoria, quindi con questo sistema si potevano utilizzare programmi, videogiochi, linguaggi di programmazione e quant'altro. Esisteva anche un'offerta che passava attraverso le edicole di software riprodotto sempre su cassette C90 e che potevano essere poi caricate su queste macchine. Questi piccoli sistemi consentirono però la nascita di una generazione di informatici. Si può pensare per esempio che il fatto di associare ad ogni tasto un comando di un linguaggio che per lo più poteva essere Basic, però fu assolutamente anche di stimolo per spingere e solleticare la fantasia e la creatività di questa generazione di neo-informatici. E infatti da lì partì anche l'inizio di una produzione di software che poi, passando da questi home computer ai personal veri e propri, attraverso appunto la programmazione si viene veramente a creare una generazione di hacker e di professionisti dell'informatica. Questo è per la gente sulla rete, fatevi sentire quanti siete. E grazie a questa nuova generazione di smanettoni che il movimento antagonista entra in contatto con le nuove tecnologie. All'inizio solo per impaginare fanzine e bollettini. Per quel che riguarda l'inizio della storia del rapporto tra il movimento antagonista, il movimento dell'autogestione e gli strumenti informatici, bisogna partire dalla fine degli anni Ottanta. Nel 1987 io ho entrai in un collettivo autonomo qua di Bologna, un collettivo che aveva sede in un centro di documentazione. Tra le varie attività c'era anche la produzione di una rivista di 48 pagine per la quale i compagni e le compagne battevano a macchina per poi riportare in tipografia questi fogli dove veniva ribattuto il testo su un computer della tipografia e lì venivano prodotte delle strisce di stampato che poi venivano composte a mano per poi passare in fotoprint. Io ero arrivato da poco, però proposi subito l'acquisto di un personal computer dell'87, in circolazione c'erano già i 286 dell'Intel e quindi tutti i PC compatibili che potevano essere acquistati con un milione circa di lire. Questo acquisto avrebbe abbattuto i tempi e l'impegno di produzione, impaginazione e stampa della rivista. Inoltre anche da un punto di vista dell'elaborazione dei contenuti, dell'organizzazione dei materiali, l'uso del computer si rivelò essere estremamente utile e importante. Ben presto però si comprese che le potenzialità erano ben altre e che connettendo i computer grazie alla linea telefonica si apriva un universo di possibilità. I primi tentativi non furono certo facili, ma fu così che, già sul finire degli anni Ottanta, i movimenti antagonisti erano online. Nell'anno successivo invece si prospettò una nuova occasione dell'uso del computer stesso. Da Bologna, attraverso contatti con i compagni di Padova di Radio Sherwood, arrivò la proposta di utilizzare strumenti di collegamento attraverso linea telefonica delle rispettive macchine. Ai tempi già esistevano i fax e quindi si sapeva che si potevano trasmettere immagini e documenti da una città all'altra appunto attraverso la linea telefonica. In quel momento però si iniziava a immaginare, a comprendere che si sarebbe potuto fare molto di più che non spedire un volantino. Attraverso questi modem probabilmente si potevano condividere i computer stessi, le risorse, la comunicazione e si iniziò la sperimentazione, che non fu semplice all'inizio perché per riuscire a stabilire un collegamento decente, per riuscire a trasferire una pagina di testo, impiegammo una settimana tra Bologna e Padova. Fu una grande soddisfazione e in breve tempo divenne uno strumento di uso quotidiano che prevedeva appunto lo scambio di comunicati, informazioni, notizie e anche software, perché poi bisognava adeguare, aggiustare e perfezionare tutto il sistema. La svolta però arrivò grazie ai contatti con il Nord Europa. Nasce così ECN, la prima rete di informazione antagonista italiana. Nel 1988 dal Nord Europa ci arrivò una proposta dai compagni danesi per la realizzazione di una rete tra realtà dell'antagonismo, una rete di computer che potesse garantire appunto collegamenti, scambi di notizie, informazioni, contenuti da una parte all'altra dell'Europa. La proposta era rivolta ai collettivi italiani, tedeschi, europei e in particolare a quelli che erano organizzati intorno a centri di documentazione piuttosto che a radio o centri sociali. In particolare le strutture di comunicazione erano ritenute le più adeguate a ricevere questa proposta. Comunque andammo a Friburgo, dove trovammo i compagni tedeschi di Radio Dreikland e i compagni danesi di TV Stop. Ci fu spiegata la proposta anche nei dettagli tecnici, con esempi e con una proposizione molto interessante. E noi dopo questa riunione tornammo in Italia, purtroppo questa proposta non si realizzò a livello europeo, però la facemmo a livello italiano, cioè utilizzando la tecnologia Fidonet proposta appunto dai danesi e coinvolgendo le realtà del coordinamento antagonista italiano, quindi appunto Roma e Firenze per prima e Bologna e poi in seguito anche Milano e più avanti anche Torino, Brescia, Napoli, insomma attraverso il collegamento di queste realtà si materializzò quella proposta danese della rete ECN, European Counter Network, che però era a livello italiano ma già abbastanza robusta e strutturata. più di qualsiasi altro esempio fuori dall'Italia. L'ossatura di base si strutturava appunto intorno a centri di documentazione e a radio libere, e tra cui radio libere antagoniste come Radio Onda Rossa, Radio Sherwood, e poi centri di documentazione come appunto a Bologna era il Gabbianò, e a Firenze intorno al centro sociale Emerson, e anche a Napoli e in Sicilia, anche a Palermo ci fu un nodo di questa rete. Ma tecnicamente come funzionava ECN? ECN era una rete in tecnologia Fidonet, quelle cosiddette rete ad anello. Era costituita da una serie di server in grado di ricevere collegamenti da client nella stessa città o anche da fuori, e di scambiare informazioni appunto con questi client. Le informazioni si trattavano di interventi all'interno di forum piuttosto che scambio di file, documenti e quant'altro. Quindi ogni server serviva dei client che potevano essere nella casa di ogni compagno o in altre sedi politiche, e che facevano riferimento al server cittadino. La struttura ad anello poi consentiva che questi server in notturna si collegassero tra di loro, aggiornandosi reciprocamente, seguendo proprio un percorso circolare, per cui il primo computer della catena si sarebbe collegato con il secondo, che il quale a sua volta avrebbe scambiato i propri dati col primo e poi col terzo, e via discorrendo, finché l'ultimo, collegandosi al primo del percorso, avrebbe aggiornato in questa maniera completamente tutta la rete con gli stessi contenuti. La tecnologia era stata mutuata dall'ambito degli hobbisti dell'elettrotecnica e delle associazioni di radioamatori, che invece delle linee telefoniche utilizzavano i loro baracchini trasmettendo i dati e gli aggiornamenti attraverso onde radio. Gli anni 80 sono comunemente considerati gli anni del riflusso, quelli nei quali molti si disinteressavano alla politica per rinchiudersi nel privato, ma non per tutte e tutti era così. Anche in quel momento alcune lotte attraversavano il paese. È in questo contesto che le nuove tecnologie divengono anche uno strumento politico. Nella rete ECN si inizia a lavorare anche sull'organizzazione stessa dei contenuti. C'erano ambiti di discussione collettiva, dei forum, ancora non esisteva la posta elettronica come la conosciamo oggi, però era possibile identificarsi partecipando a questi dibattiti e poi scambiandosi documenti, informazioni, volantini e anche immagini da una città all'altra, mettendole a disposizione di tutto il movimento antagonista. Movimento che allora faceva riferimento al coordinamento antinucleare e antiimperialista. Negli anni 80, in parte di quegli anni 90, era impegnato nelle lotte contro le centrali nucleari e contro le basi NATO, in particolare quelle basi missilistiche che ospitavano sul territorio nazionale testate nucleari. Ogni nodo della rete ECN era mantenuto e supportato compagni organizzati in collettivi che si occupavano di mantenere in linea le macchine, di supportare i client dei compagni che si collegavano, che ovviamente avevano, specialmente all'inizio, sempre qualche problema, e anche di distribuire attraverso strumenti come le radio appunto, oppure attraverso il cartaceo, i contenuti che venivano veicolati dalla rete stessa. Quindi si iniziarono a produrre dei bollettini che riportavano notizie e cronaca del movimento, e contemporaneamente anche attraverso la rete si coordinavano le iniziative. Si allargò fortemente la comunicazione e lo scambio tra città distanti tra loro, e anche la pratica, l'organizzazione, le logistiche e quant'altro divennero certamente semplificate. Anche le lotte stesse. Così all'inizio dei 90, poco dopo che il movimento della Pantera aveva risvegliato l'Italia dal torpore degli anni 80, si ha la prima lotta di lavoratori interamente organizzata grazie alla rete ECN. E tutto questo prima di internet. Per esempio posso citare quello che fu la lotta degli addetti al censimento intorno al 90, quando i rilevatori, a causa del mancato pagamento, delle cattive condizioni di lavoro, bloccarono il censimento, coordinandosi attraverso la rete ECN e condividendo le piattaforme di rivendicazione tra Brescia, Milano, Firenze e Bologna. Quindi in tutte le città le rivendicazioni erano basate su quella stessa piattaforma che era stata discussa e scambiata attraverso la rete, e quelle istanze si bloccò il censimento. Fu il primo esempio di una lotta coordinata attraverso la rete. Nei mesi e negli anni successivi sempre di più sarebbe stato usato questo strumento per convocazione di manifestazioni regionali o nazionali. Per riassumere, nei 4 anni che precedettero, tra virgolette, l'arrivo di internet sui nostri computer, noi come movimento antagonista avevamo una rete nostra autogestita al di fuori di un qualsiasi tipo di controllo o supervisione esterna, che ci consentiva di sperimentare, di comunicare, di elaborare, di potenziare anche altri strumenti di comunicazione come appunto le radio o anche tutta la produzione stampata e cartacea. Finisce qui questa puntata speciale di Clio. Grazie a Zombie J per averci accompagnato a spasso per gli anni Ottanta, quando la fantascienza cominciava a divenire realtà. Sul blog storiasvelata.wordpress.com potete trovare tanti altri contenuti e, se vi va, sostenere questo lavoro. A presto!